Ora, per tornare a Madame de Lhomme, ben presto duchessa di Guermantes, grazie alla morte del suocero, fu un incremento di infelicità per i Courvoisier che le teorie della giovane principessa, pur persistendo nel suo linguaggio, non improntassero in nulla la sua condotta. In tal modo, infatti, quella filosofia, se così la si può definire, non arrecò il minimo pregiudizio all'eleganza aristocratica del salotto Guermantes. Naturalmente, tutte le persone che Madame de Guermantes non riceveva si figuravano che fosse perché non erano abbastanza intelligenti, e una ricca americana, la quale in vita sua non aveva mai posseduto alcun libro all'infuori di un antico e mai aperto volumetto delle poesie di Parny posato perché era d'epoca su un mobile del suo salottino, mostrava tutta l'importanza da lei attribuita alle qualità dell'intelletto, divorando con gli occhi Madame de Guermantes quando questa faceva il suo ingresso all'opera. E, non meno naturalmente, Madame de Guermantes era sincera quando sceglieva una persona in virtù della sua intelligenza. Dicendo di una donna che le sembrava affascinante o di un uomo che era estremamente intelligente, era convinta di consentire a riceverli solo per via di quel fascino di quell'intelligenza, giacché il genio dei Guermantes non interveniva in quell'ultima fase, più profondo, situato all'oscuro ingresso della regione in cui nasceva il giudizio dei Guermantes, il vigile genio impediva loro di trovare intelligente l'uomo o affascinante la donna che non avessero qualche valore mondano, presente o futuro. In tal caso, l'uno veniva dichiarato colto, sì, ma come un dizionario, o viceversa volgare, con uno spirito da commesso viaggiatore. La bella donna era un tipo insopportabile o parlava troppo. Quanto alle persone prive di posizione mondana, che orrore, erano degli snob. Il signor di Broté, il cui castello era vicinissimo a Guermantes, frequentava soltanto altezze, ma se ne prendeva gioco e sognava di vivere nei musei. E così Madame de Guermantes si indignava quando qualcuno accusava Broté di essere uno snob. «Babal uno snob! Ma siete pazzo, mio caro! È proprio il contrario! Detesta le persone brillanti, non si può fargli conoscere nessuno, persino a casa mia. Se lo invito con qualche ospite nuovo, viene, ma poi non fa che lamentarsi». Eppure, rispetto ai Courvoisier, i Guermantes tenevano l'intelligenza, anche dal punto di vista pratico, in tutt'altro conto. Questa differenza fra i Guermantes e Courvoisier produceva, già in positivo, notevoli frutti. Così Madame de Guermantes, avvolta peraltro in un mistero dinanzi al quale da lontano sognavano tanti poeti, aveva dato la festa di cui abbiamo già parlato, quella in cui il re d'Inghilterra si era divertito come non mai, perché la duchessa aveva avuto l'idea, che non sarebbe mai venuta in mente ai Courvoisier, e l'ardire per loro inconcepibile di invitare, a parte le personalità citate, il musicista Gaston Lemaire e l'autore drammatico Grandmoulin. Ma era soprattutto in negativo che l'intellettualità si faceva sentire. Se il coefficiente necessario di intelligenza e di fascino diminuiva gradatamente con l'elevarsi del rango di chi desiderava essere invitato dalla duchessa, fino ad approssimarsi a zero quando si trattava delle principali teste coronate, in compenso, più si scendeva sotto il livello regale e più il coefficiente si elevava. Dalla principessa di Parma, per esempio, c'era una quantità di persone che l'altezza riceveva perché le aveva conosciute da bambina o perché erano imparentate con questa o con quella duchessa o addette al servizio di questo o quel sovrano, fossero anche, per il resto, brutte, noiose o stupide. Ora, per i Courvoisier, l'etichetta «ben voluto dalla principessa di Parma» sorellastra della duchessa d'Arpajon, ospite ogni anno per 3 mesi della regina di Spagna, sarebbe bastata a far sì che ricevessero costoro in casa propria. Ma Madame de Germant, che da 10 anni accettava cortesemente il loro saluto nel salotto della principessa di Parma, non gli aveva mai concesso di oltrepassare la sua soglia, ritenendo che un salotto, nel senso sociale, fosse come un salotto nel senso materiale del termine, dove basta qualche mobile non bello che si lascia lì solo come riempitivo e prova tangibile di ricchezza a renderlo infame. Un salotto siffatto somiglia a un'opera letteraria nella quale non ci si sappia astenere dalle frasi che ostentano cultura, dall'eccesso di arguzia e di facilità. Come un libro, come una casa, la qualità di un salotto, pensava a ragione Madame de Germant, ha nel sacrificio la sua pietra angolare. Molte amiche della principessa di Parma, con le quali la duchessa di Germant si limitava da anni allo stesso saluto di convenienza o a ricambiare i loro biglietti da visita senza mai invitarle né accettare i loro inviti, se ne lamentavano discretamente con l'altezza che i giorni in cui il duca di Germant andava a trovarla da solo gliene faceva cenno. Ma lo scaltro signore, cattivo marito della duchessa in quanto aveva delle amanti e non di meno suo complice fidato per ciò che riguardava il buon funzionamento del suo salotto e lo spirito di Orian che ne costituiva la principale attrattiva, rispondeva: «Ma mia moglie la conosce? Ah, allora in effetti avrebbe dovuto. Ma ecco, dirò a Madame come stanno realmente le cose. Orian, in fondo, non ama la conversazione delle donne, è circondata da una corte di intelligenze superiori. Quanto a me, non sono suo marito, sono soltanto il primo dei suoi camerieri. Salvo una sparuta minoranza che, questa sì, davvero intelligente, le donne l'annoiano. Per esempio, Vostra Altezza, che è così fine, non mi verrà a dire che la Marchesa di Souvré sia una donna intelligente. Sì, capisco benissimo, la principessa la riceve per bontà e poi la conosce. Mi dite che Orian l'ha vista, può darsi, ma ben poco ve lo do per certo. E poi confesserò alla principessa che in parte è anche colpa mia. Mia moglie è stanchissima e ci tiene talmente a essere gentile che se la lasciassi fare le visite non finirebbero mai. Non più tardi di ieri sera aveva un po' di temperatura, ma temeva di dare un dispiacere alla duchessa di Borbone se non fosse andata da lei. Ho dovuto mostrare i denti, ho proibito che attaccassero i cavalli. Ecco, ora sapete tutto. Sono quasi tentato di non riferire a Orian quel che m'avete detto di Madame de Souvré. Orian ama a tal punto Vostra Altezza che si affretterà a invitare Madame de Souvré. Sarà una visita in più, saremo costretti a entrare in relazione anche con la sorella di cui io conosco benissimo il marito. No, no, no, no. Credo che non dirò niente a Orian se la principessa mi dà la sua autorizzazione. Leviteremo così un bel po' di stanchezza e di agitazione superflue. E vi assicuro che per Madame de Souvré non sarà una gran perdita. Va dappertutto, negli ambienti più brillanti. Noi non si può neanche dire che riceviamo, solo qualche pranzetto da nulla. Madame de Souvré s'annoierebbe a morte. La principessa di Parma, ingenuamente persuasa che il duca di Germant non avrebbe trasmesso la sua richiesta alla duchessa e desolata di non aver ottenuto l'invito che Madame de Souvré desiderava tanto, si sentiva, d'altra parte, ancora più lusingata di essere un'abitué di un salotto così inaccessibile. Certo, era una soddisfazione non esente da fastidi. Ogni volta che invitava Madame de Germant, la principessa di Parma doveva spremersi le meningi per evitare che ci fosse qualcuno la cui presenza potesse dispiacere alla duchessa e indurla a non tornare. Nei giorni fissi, Dopo il pranzo, al quale faceva sempre partecipare assai di buon'ora, perché aveva mantenuto le abitudini antiche qualche invitato, il salotto della principessa di Parma era aperto agli habitué e, in generale, a tutta la grande aristocrazia francese e straniera. Il ricevimento consisteva nel fatto che, uscita dalla sala da pranzo, la principessa si sedeva su un canapè davanti a un grande tavolo rotondo, conversava con un paio delle signore più importanti che avevano preso parte al pranzo, oppure dava un'occhiata a una rivista, giocava a carte o fingeva di giocare secondo un'abitudine di corte tedesca, a volte facendo un solitario, a volte scegliendo come partner, vero o immaginario, un personaggio di spicco. Verso le 9, la porta del grande salotto non smetteva più di aprirsi a due battenti, richiudersi, riaprirsi, per lasciar passare i visitatori che avevano pranzato in fretta e furia, oppure, se invitati a pranzo altrove, avevano saltato il caffè dicendo che sarebbero tornati e contando, in effetti, di entrare da una porta e uscire dall'altra, per conformarsi agli orari della principessa, la quale, tuttavia, intenta al gioco o alla conversazione, faceva finta di non vedere le nuove arrivate e solo quando erano a due passi da lei si alzava graziosamente, sorridendo con bontà se si trattava di donne. Queste, peraltro, eseguivano, mentre l'altezza stava in piedi, una riverenza che giungeva sino alla genuflessione, in modo da mettere le labbra all'altezza della bella mano che pendeva assai bassa e da baciarla. Ma in quel momento la principessa, come se ogni volta fosse sorpresa da un protocollo che pure conosceva perfettamente, faceva raddrizzare, come a viva forza, la genuflessa con una grazia e una dolcezza senza uguali e la baciava sulle guance. Grazia e dolcezza che presupponevano, si dirà, l'umiltà con cui la nuova arrivata piegava il ginocchio. Certo, ed è lecito supporre che in una società egualitaria la cortesia scomparirebbe, non, come si è soliti credere, per mancanza di educazione, ma perché negli uni verrebbe meno la deferenza dovuta al prestigio, che per essere efficace deve essere immaginario, e più ancora, negli altri, l'amabilità che si prodiga e si affina quando si sente che essa ha, per chi ne beneficia, un prezzo incalcolabile, destinato a ridursi bruscamente a zero, come tutto ciò che aveva un valore puramente fiduciario, in un mondo fondato sull'uguaglianza. Ma tale scomparsa della cortesia in una società nuova non è affatto scontata. A volte siamo troppo inclini a credere che le condizioni attuali di uno stato di cose siano le sole possibili. Intelligenze di prim'ordine credevano che una repubblica non avrebbe potuto avere né diplomazia né alleanze e che la classe contadina non avrebbe sopportato la separazione della Chiesa dallo Stato. Dopotutto, la cortesia in una società egualitaria non sarebbe un miracolo più sensazionale del successo delle ferrovie e dell'uso militare dell'aeroplano. E poi, quando anche la cortesia scomparisse, niente prova che sarebbe una disgrazia. In fondo, una società non diventerebbe segretamente gerarchizzata man mano che diventasse di fatto più democratica? È possibilissimo. Il potere politico dei papi è enormemente aumentato da quando non possiedono più né stati né esercito. Su un fedele del XVII secolo le cattedrali esercitavano un fascino assai minore che su un ateo del XX, e se la principessa di Parma fosse stata sovrana di uno stato, mi sarebbe venuto in mente di occuparmi di lei più o meno come di un presidente della Repubblica, cioè per niente. Una volta rialzata e baciata la supplice, la principessa si rimetteva a sedere e tornava al suo solitario, non senza avere, se la nuova venuta non era proprio trascurabile, conversato un attimo con lei facendola accomodare in una poltrona. Quando il salotto ormai era troppo gremito, la dama d'onore, incaricata del servizio d'ordine, faceva spazio conducendo gli abitué in un immenso atrio attiguo al salotto e zeppo di ritratti, di curiosità relative alla casa di Borbone. Gli invitati abituali della principessa interpretavano allora con piacere il ruolo di cicerone e dicevano cose interessanti che i giovani, più propensi a scrutare le altezze vive e nel caso a farsi presentare loro dalla dama e dalle damigelle d'onore, che a considerare le reliquie delle sovrane defunte, non avevano la pazienza ad ascoltare. Troppo presi dalle conoscenze che potevano fare, dagli inviti che forse avrebbero potuto raccogliere, ignoravano del tutto, anche dopo anni, che cosa ci fosse in quel prezioso museo degli archivi della monarchia, e ricordavano solo, confusamente, che, adorno di cactus e di palme giganti, quel tempio dell'eleganza assomigliava alla serra del giardino zoologico.